noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. So what am I fighting for? Everything back and more. And I'm not gonna let this go. I'm ready to settle the score. Get ready cause this is war. Ma ancora la Roma col tocco verticale. Strootman in qualche modo prolunga. Poi Dzeko. La deviazione, poi compare in testa, la gol! 1-0 Roma, tutto regolare. Con Perotti abbracciato da Dzeko e da Strootman. 1-0 Roma. Questo allenatore che è arrivato adesso non è un mistero dire che ha stupito un po' tutti, no? Ci ha portato subito a una nuova dimensione anche a livello europeo e ci ha portato ad affrontare ogni squadra nella stessa maniera, con la stessa aggressività, con la stessa organizzazione in fase di riconquista della palla, che poi a questo livello è molto importante. No, i meriti sono principalmente del gruppo. Io ho cercato di dare solo il mio pensiero, però la cosa più importante, come ho detto anche in precedenza, è entrare nella loro testa, non tanto nella testa degli altri. E questo in questo momento credo di esserci riuscito, ma non mi accontento, bisogna lavorare ancora molto. Non mi accontento, bisogna lavorare ancora molto. Io continuo a pensare che la Roma abbia fatto una grandissima impresa in questo girone più difficile della Champions League e si è consacrato anche, si è accesellato, io ringrazio anche all'1-1 del Chelsea con l'Atletico Madrid, quello che meritava a tutti gli effetti ampiamente, cioè il primato, il primo posto in questo girone. Passa naturalmente anche la Juventus, come sapete, vincendo ad Atene così come ha giocato a Napoli, magari in maniera non così brillante, perché secondo me a Napoli è stata brillantissima, però 2-0. Dybala molto più scuro che chiaro, anche questo è un argomento all'ordine del giorno. 4 partite senza subire gol, la Juventus è tornata ufficialmente. Te l'ho detto che avresti gridato ieri sera per Luigi Pardo? Non c'è dubbio su quello. Buonasera, buongiorno, come va? Beh, bene, dai, ne abbiamo portate due di là. E oggi portiamo la terza. Mamma mia, come sei ottimista. Aspetta, che c'è sì. Giorgino De Luca. Fammi delle mani, sì. Alle corna, fai doppia corna. Ma sì. Vengono i brividi. Ma perché no? Perché no? Salutiamo il professor Giancarlo Dotto. Certo. Ciao, buongiorno, lo abbracciamo. Tutti abbracciati e affratellati da questa bellissima serata. Ho sentito la giusta esultanza anche di Pardo, che ho seguito in diretta. Ieri gliel'ho detto: conserva la voce, mi raccomando, mettiti la sciarpina. Lo sapevo che avrebbe gridato. Faceva un freddo ieri. Vogliamo parlare del clima di Roma. Quanto ti piace, ti faccio la prima domanda, quanto ti piace Difra? Giancarlo Dotto, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, è una voce mai banale, devo dire, sempre molto, molto corrosiva, e questo è indiscutibile. E insomma, sulla vicenda Totti Spalletti aveva preso una posizione molto chiara e molto precisa, e credo che abbia una stima indiscutibile per l'allenatore Spalletti, che insomma sia condivisa. Te l'aspettavi un Di Francesco così subito, no, in palla, perché, così subito capace di interpretare gli umori? La mia storia con Di Francesco nasce da un svarione, cioè a un certo punto mi sono fatto depistare da una faccia che mi sembrava un po' buia e da una personalità che mi sembrava un po' dimessa. Ho preso un granchio colossale e pubblicamente, anche scrivendolo un pezzo sulla Gospia e altrove, cioè io provo un piacere quasi perverso a confessare le mie I miei errori, le mie valutazioni, e soprattutto a dirlo pubblicamente. Quindi ho trovato invece una persona straordinaria, altro che personalità dimessa, una personalità che sembra dimessa per i superficiali come me, ma in realtà è uno, ecco, lui dice: sono entrato nelle teste dei giocatori. Adesso è un'espressione un po' alla moda, no? Entrare nelle teste dei giocatori, però lui si è fatto accettare da un gruppo che ha una somma di personalità enorme, si è fatto accettare, e questo con grande buonsenso. Il buonsenso, secondo me, a meno che tu non sia un carismatico puro come Guardiola, Mourinho, il buonsenso è la dote e la virtù migliore degli allenatori. Quindi grande Eusebio, grande Eusebio. Non fa una piega, infatti Pierluigi e te ce lo siamo detto molte volte, poi tu la Roma l'hai vista diverse volte, l'hai commentato diverse volte, compresi ieri sera. quello che più sorprende è il body language di questi giocatori, sono le facce di questi giocatori, ma anche le parole di De Rossi, che ieri ha così messo il miele sul pane con Di Francesco. Loro ci credono in questo allenatore, loro ci credono, a cominciare dal capitano. Su Di Francesco c'era un equivoco di fondo: Di Francesco ha fatto un percorso professionale in questi anni clamoroso, perché il Sassuolo è stato veramente un modello, un esempio incredibile. E io ho citato spesso, proprio perché mi sembrava assurda diciamo non l'ostilità, ma insomma comunque il dubbio che c'era attorno a Di Francesco, il caso Sarri, nel senso che secondo me Di Francesco negli anni di Sassuolo ha dimostrato addirittura di più di quello che aveva dimostrato, che comunque era tanto, Sarri negli anni di Empoli, e quindi meritava di poter essere accolto. C'è sempre un inizio della vita, cioè Allegri prima di passare al Milan aveva fatto Cagliari, Sassuolo, Cagliari era l'esperienza subito precedente. Inizio. Zidane è l'eccezione che comincia dal Real Madrid, e comunque anche su Zidane, quando comincia dal Real Madrid, anche se comincia dal Real Madrid, c'è sempre un punto interrogativo, quindi c'è sempre un punto di partenza. E io sono molto felice per Di Francesco, perché trovavo veramente incredibile questo clima così di... Beh, di scetticismo, ma no, guarda che ci stava comunque, guarda che Giancarlo ha fatto outing con suo grande merito, però è così, ci stava. Io stesso dicevo a inizio stagione, una squadra basata su tante scommesse, prima tra le quali quella dell'allenatore, perché sì, hai ragione, c'è sempre un inizio, però non l'avevamo ancora visto questo livello. Poi la Roma veniva da uno Spalletti che indugia un po' nelle pose titaniche, no? Anche se poi dietro queste pose titaniche c'è tantissima insicurezza, c'è voglio dire, l'allenatore è grandissimo, l'uomo è spesso è vittima dei suoi fantasmi, cioè popolato da fantasmi, quindi arriva di Francesco, che sembra così, appunto, l'abbiamo detto, una personalità dimessa, in realtà è una personalità non solo rocciosa, ma anche capace di una dialettica infinita. Ricorderete i dubbi sul fatto che lui fosse un oltranzista, un demaniano, erano dubbi ridicoli. Questo è un ragazzo terrigno che sa stare al mondo e sa misurarsi con quello che ha intorno, insomma, e lui ha intorno una squadra formidabile, parliamoci chiaro. Certo, allora, proprio su Spalletti, io poi voglio solleticarti su un'altra cosa un po' più originosa. Allora, ieri si è ricamato molto su quelle parole della vigilia di De Rossi: Spalletti ha fatto qualche casino. Beh, è vero, ha semplicemente detto la verità, pur... confermando tutta la stima per Spalletti. De Rossi pure è uno che non si tira indietro, non l'ha fatto neanche ieri, sentiamo. Ho visto dei titoli oggi un po' disonesti, non che rispecchiavano molto poco quello che poi ho detto, perché io ho fatto tutto un discorso su quanto Spalletti ci avesse rimesso in pista, che gran lavoro ha fatto con noi, con me in particolare penso sia stato l'allenatore che mi ha segnato di più, perché ci ho lavorato 7-8 anni, quindi sono veramente tanto legato a questo allenatore, e quel discorso che avevo ripreso l'avevo fatto il 28 maggio, insomma il giorno in cui sapevo che andava via, e ci tenevo a ribadire la mia vicinanza a lui. Posso dire una volta di più De Rossi ha ragione, di nuovo? Giancarlo? Sì, assolutamente. De Rossi è delizioso quando insieme all'espressione un pochino disonesti, perché naturalmente l'espressione corretta è sono stati disonesti e basta, ma insomma ha voluto un po' addolcire. In alcuni casi è stata una porcata, possiamo pure dirlo, perché veramente una forzatura, perché il discorso era molto chiaro, di quello di De Rossi di ieri. Sì, esatto, era sostanzialmente un elogio a Spalletti trasformato, ma i giornali oggi per sopravvivere devono purtroppo giocare sporco, quindi non me la sento neanche di condannarli, perché io poi vengo da quel mondo lì, però certamente giocano sporco. Ecco. Però certo, i casini sono stati fatti, ma sì, certamente non per colpa di Spalletti e neanche per colpa di Totti, diciamo. Io mi sono battuto semplicemente in una sola direzione: avrei voluto, gradito, che Totti da capitano, da leader, spendesse un po' di più, qualche parola di più, per sanare un conflitto assurdo, un'anomalia assurda tra una città che tifava per lui e l'altra città che tifava per la Roma. Allo stesso tempo devo dire che sono ammirato, sorpreso e compiaciuto da come Totti sta interpretando la parte di dirigente, perché è veramente un mondo completamente nuovo. All'inizio abbiamo pensato che prendesse le misure, le sta prendendo bene, sì, si sta allineando bene, diciamo così, in quello che è il mondo Roma oggi, che è un mondo molto ben allineato, molto ben sintonico, la notizia dello stadio ovviamente aggiunge euforia a euforia, quindi molto bene, veramente. Un'ultima cosa che chiedo a entrambi, visto che pure conoscete bene Spalletti, molto meglio di me, è tutto rose e fiori in questo momento per Spalletti all'Inter, sotto ovviamente la superficie del lago dorato, dei risultati, oppure si nasconde sotto quella superficie del lago dorato uno Spalletti che non è poi così felice di quello che gli è stato messo a disposizione? E parola a Pardo, perché lui sta di intendere cosa c'è sotto le rose, sotto i fiori. Io credo che sia felice perché sta facendo una grande stagione, un capolavoro, e mi sembra che stia interpretando anche mediaticamente, che è una parte importante in assoluto per gli allenatori, ma per uno come Spalletti, se un po' lo conosco, è una parte che lo diverte anche molto. E lui secondo me sta interpretando al meglio questa cosa, si sta divertendo. Voglio essere più chiaro, ma se a gennaio non gli pigliano nessuno? No, ma lui io credo che chiederà qualcosa, anche se la forza dell'Inter fino a questo momento è la mancanza di abbondanza, è proprio less is more in purezza, nel senso che meno hai, ci vuole allenatore bravo, e lui è bravissimo, però è riuscito, è l'esatto contrario del Milan. Milan si è trovato con tanti giocatori nuovi, con tante aspettative, tutti che vogliono giocare, ma alla fine poi le gerarchie complicate, difficili, e i campioni che rendono da campioni per ora ne abbiamo visti pochi. E invece Spalletti si è trovato con una rosa che è quella, senza le coppe, che ovviamente non sono un dettaglio, perché se avesse avuto anche una competizione europea sarebbe stato tutto più complicato con la rosa che ha, però ha lavorato su quelli, li ha rigenerati, e poi abbiamo scoperto per esempio a Inter Chievo che ha lavorato anche su quelli che giocano di meno. Quindi no, secondo me Spalletti è contentissimo, è chiaro che è ancora lunga, e sabato c'è una partita non banale, però appunto. Spalletti merita elogi, merita applausi, penso sia un uomo felice in questo momento, e vediamo, insomma, del domani non c'è certezza, ma per il momento mi sembra che tutto stia funzionando, e sia anche un po' quel leader dialettico che serve all'Inter. Assolutamente. Perché l'Inter da Mourinho in poi ha bisogno di qualcuno che tiri fuori d'orgoglio. Ma poi c'è molto ordine, mi sembra, anche dal punto di vista societario in questo momento nell'Inter. Sì. Giancarlo? Voglio dare una brevissima chiosa a quello che diceva Pardo. Intanto, no, che lui, per quello che ne so, come lo conosco io, felice veramente non lo sarà mai, perché è un uomo che da questo punto di vista si autosottopone a uno stress permanente che gli impedisce proprio la felicità, alla base, la condizione della felicità. Certamente assolutamente ragione Pardo, in questo momento c'è una serenità, ecco perché i risultati la danno. All'inizio questo problema c'era, cioè nel momento in cui la stagione comincia il disagio di Spalletti era forte in riferimento a un mercato così abortito rispetto a quelle che erano le attese, però in questo momento naturalmente i risultati stanno trainando tutto con un vento bellissimo. Certamente al primo, se a gennaio qualcosa dovesse non succedere e i risultati dovessero mancare, sicuramente quello è il problema latente che c'è. Esatto, come la penso io, detto fuori dai denti. Giancarlo, ti ringrazio, un abbraccio. A voi, ciao. Dunque, dobbiamo fermarci per il traffico, torniamo. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta. Tutti convocati. Nel momento che si capisce che la partita va chiusa, bisogna dar morso e chiuderla, non si può lasciarla aperta, perché poi dopo prendi un calcio d'angolo e le partite poi cambiano anche a livello psicologico. Per quanto riguarda invece la gestione della palla, è proprio c'è errori di misura, fermi, scelte di passaggio che bisogna assolutamente migliorare, perché abbiamo considerato dei palloni facendo delle scelte sbagliate. Su questo bisogna lavorare, e tanto. I tifosi juventini hanno vista roba via, hanno vista negatività addosso, andiamo in finale e perdiamo, giochiamo, tanto arriviamo in finale, arriviamo in finale di Champions, non è facile. Bravo, cioè, io e Stasamino non mi faccio. Va bene, deve essere pure più positivo. Beccala là, da Grande, applausi. Sì, ci uniamo agli applausi a applausi. Massimiliano Allegri. Finale, cioè, arrivare, è un grande risultato sportivo. Posso dirti, questo tuo tentativo di Toscano è ammirevole, ma la cosa vera, non mi viene, pure puoi provare a fare Luciano e ricordare che Gio Mario, per esempio, è meglio, i comportamenti, sto lavorando, adesso l'imitazione, non è male, sappiamo che sei Zelig, dai. Saluto il mio maestro Andrea Perroni, che è il più grande, o nonché anche amico di Spalletti, che è il più grande imitatore di Spalletti che c'è al mondo. E allora ti parla della disponibilità dei miei calciatori, mi ha insegnato appunto dei calciatori. No, allora, Allegri ieri secondo me ha avuto un momento proprio di verità. Ogni tanto, no? Quando uno, perché è un mondo comunque di diplomazie, e in quel momento lì invece, secondo me, complice Sandro Sabatini, che è uno che conosce bene, del quale si fida, perché insomma, oltre che essere un bravissimo giornalista, hanno un rapporto anche di non voglio dire amicizia, perché l'amicizia è una parola grande, ma di confidenza. C'era Carlo Ancelotti in studio a Premium, c'era Rigo Sacchi, cioè c'era un mondo di... E secondo me lui ha detto questa cosa che è verissima. È che lui si porta dentro, io mi unisco al tuo applauso, perché veramente sembra, cioè, è paradossale che una squadra che vince 6 campionati, che negli ultimi 3 anni con Allegri c'entra oltre alle Coppa Italia 2 finali su 3 di Champions League, se le gioca male, una soprattutto, perché poi insomma Berlino non se l'era giocata male, Cardiff se l'è giocata malissimo, che ci sia una parte del mondo bianconero che viva tutto questo come la normalità, quasi una certa rassegnazione. Ecco, e secondo me ha fatto bene a suonare la sveglia, perché... Certo, e beh, perché, ogni tanto va detto, giusto, no? Perché è giusto. Eh beh, sì, Maurizio Crosetti, buongiorno, mi dica la sua, si unisce all'applauso, ecco, sì, o beh, no? Buongiorno, ma l'applauso fino a un certo punto, nel senso che sono d'accordo con voi, non si può considerare normale quello che la Juve di Allegri ha fatto negli ultimi 3 anni, ma secondo me non si può neanche etichettare come negatività quello che lo juventino, purtroppo per lui... patisce dal 1973 con rarissime varianti, e cioè una delusione continua in Europa, in Champions, che porta a non essere forse il massimo dell'ottimismo quando ci si arriva di nuovo vicini. Questo non significa però che arrivarci sia automatico, no, Maurizio, e che però... non è negatività, ecco, non è abbastanza juventino da sapere che non è negatività, è storia. Sì, lo so, Maurizio, è storia, però preferisci arrivarci e poi giocartele per perdere con Barcellona e Real Madrid, o non arrivarci, no, per vabbè, niente, chiaro, no, uscire vabbè, con il Galatasaray sulla neve e poi non alzare nemmeno l'Europa League che giochi in casa. È agghiacciante questo attacco, però Però è storia anche questa, è un agghiacciante attacco alla memoria della buonanima di Antonio Conte, che in Europa ha fatto non peggio ma peggissimo di Allegri, se si può dire, e lo diciamo. Però se poi alla fine, perché lo juventino è strano, è un personaggio, guarda, io lo conosco bene lo juventino, è un soggetto antropologicamente bizzarro, e non ti direbbe mai che Conte è quello che ha buttato via la Coppa o l'eventuale cammino europeo nella neve di Istanbul, che poi eccetera eccetera. Ti dirà sempre che anche se se n'è andato in quel modo è il capitano, è quello che ha cambiato la Juve dopo i 2 settimi posti, quindi è tutto vero, però è più complesso di così. Beh, insomma, io continuo ad arrendermi e mi fido di Crosetti quando dice che la Juventina non è male antropologicamente Gross, strano. Quello che dice Gross è, prima di tutto, che, e questo è anche bello, è anche romantico, che Antonio Conte appartiene alla storia della Juve più di quanto ci appartenga Allegri. E questo è un fatto bello, non perché Allegri non se lo meriti, ma perché comunque è un fatto che parte da quell'esperienza, sì, meravigliosa. Conte sappiamo che era, diciamo, l'altro capitano rispetto a Del Piero, cioè l'unico giocatore assieme a Del Piero negli ultimi 20 anni che da calciatore ha avuto delle caratteristiche, delle qualità morali, delle qualità di carisma, delle qualità di rapporto con i tifosi tali da renderlo un capitano un po' come è stato Alex Del Piero. Ovviamente Alex Del Piero più per meriti tecnici e Conte più per meriti comportamentali, ma due grandissimi del Pantheon bianconero. Quindi questo ci sta, e questo è anche bello, cioè, questo è il motivo per il quale se Totti andrà mai un giorno ad allenare la Roma, indipendentemente, non penso che abbia questo pensiero in testa, ma indipendentemente dai risultati sarà sempre Totti. Poi Conte i risultati l'ha anche ottenuti, questo va detto, ed è l'uomo che ha cambiato la Juve. Però, però poi sicuramente su Allegri rimane un po' quel pregiudizio, sai, che esatto. Allegri, pregiudizio Allegri si becchi sempre qualche critica in più di quelle che merita, questo credo sia un obiettivo, no? Poi perde, sai cos'è che potremmo risolverla così? Allegri, che secondo me è superiore come carriera fin qui europea, internazionale a Conte. Ecco, lo juventino ad Allegri può volere anche molto bene, Conte gli fa sangue. È così, punto e basta, gli fa sangue, quindi no, a questo è non così. Si comanda, Pardo lo sa meglio di tutti, quindi cosa? No, niente, no, figurati. Quando vedi un piatto che ti fa sangue, una fiorentina ti fa sangue, bravo, no? Oppure quando che ne so io, dai. Risolvetemi, signori, questo altro problema che Allegri ieri sera ha sottolineato, prima levandolo e poi difendendolo. Chi? Dybala. È un momento dove le cose non gli vengono bene, ma ci sta. Ma l'anno scorso fu lo stesso periodo, soltanto l'anno scorso ebbe un infortunio, poi rientrò con il Torino alla fine, non giocò con la Roma. E è un momento così, ma Paolo deve stare sereno, deve riprendere a fare le cose con tutta la semplicità, allenarsi e trovare una condizione migliore, così come tutti gli altri. Dunque, ragazzi, come la mettiamo con Dybala che non segna da 10 partite in Champions League, cioè da aprile, e non sta giocando bene ormai da tempo, e anche in campionato non inchiostra, cioè, con continuità da un po'. Maurizio? Beh, sicuramente può essere un problema di forma, ma è anche un problema, secondo me, psicologico. Dybala ha attraversato settimane incasinate da tanti punti di vista, in alcune sfere personali, che non è il caso di stare a sfrucogliare qua. Di sicuro c'è un problema anche economico, amministrativo, contrattuale, di management, di confusione, che lui patisce, e forse, comunque, viva Dio, se sei un ragazzo non sei ancora così completo come solidità psicofisica da reggere qualunque urto, e anche tutto sommato da reggere come dire, l'ondivago destino, no? È la forma, è la condizione atletica, l'umore, è un po' la luna, no? Cioè, voglio dire, sono tutte cose che ti condizionano. Dopodiché, da aprile ad oggi, i gol che davvero non ha segnato sono quelli che non ha segnato in finale al Real Madrid. Sul resto ha tempo. Dybala sarà sicuramente il motore in più della Juve dagli ottavi in avanti, e vi segnalo un altro nome che secondo me deciderà parte della seconda stagione juventina. Questo signore comincia con la B di Bologna. Sì, sì. Ed è Bernardeschi, secondo me. Questa, no, io pensavo che facessi un altro nome, un giocatore che a me fa impazzire, Douglas Costa. Immaginiamo. Adesso sta capendo tante cose della Juve, dell'Italia e della posizione che deve tenere, e sarà sicuramente un altro giocatore decisivo. I due acquisti più importanti non sono due bufale. Qualcuno cominciava a pensare, o comunque due, non sono nemmeno due asteroidi non collocabili nell'orbita juventina. Vedrete che Allegri da febbraio a maggio, auguriamoglielo, a Kiev è difficilissimo, perché no, questi due nuovi giocatori li userà, e come? Beh, uno lo sta usando già tantissimo, sì, che è Douglas Costa, e saranno due chiavi di volta, secondo me. Grazie Maurizio, alla prossima. A voi. Ciao. Toccate la risposta, poi c'è Stefano da Roma, ci aspetta all'inizio della trasmissione. Io voglio parlare. Chiudo, guarda, do spazio a Stefano da Roma. Mi è piaciuto il viva Dio, cioè, comunque alla fine non dimentichiamoci che questi sono ragazzi, sono fenomeni. Dybala è un grandissimo giocatore, forse non è un predestinato, anzi sicuramente non è un predestinato ai livelli di Messi, visto che quel paragone era stato fatto anche giornalisticamente. Abusato. Però, insomma, guardando le cose nel loro complesso, mi sembra che Dybala stia facendo una grande stagione, sicuramente con una partenza migliore rispetto a queste ultime settimane. Insomma, non è un problema. Ancora presto per poter parlare di caso. Poi, ovvio, questo è un mondo di, come diceva prima Giancarlo Dotto, a proposito di noi giornalisti, è un mondo in cui ogni giorno tutto cambia, dove bisogna sparare il titolo forte in prima pagina, eccetera. Quindi oggi è un momento delicato per Dybala, e due mesi fa era un momento meraviglioso. Però, sembrava dici, non è un, però non è un problema. La verità sta nel mezzo, sta nel fatto che è un grandissimo giocatore e che ha ancora qualche pausa. Sì. Stefano, eccolo. Grazie all'attesa, grazie mille. Dica. No, ci mancherebbe. No, scusate, un commento sulla Roma e di Francesco, un po' di controcanto rispetto a quanto sento, che sicuramente apprezzo la persona, apprezzo un tifoso della Roma, premetto. Sì. Apprezzo anche di Francesco come uomo, come storia, come tutto, insomma, la persona gradevole. Però che la Roma gioca bene mi sembra come dire un dato un pochettino esagerato, siccome qui a Roma tendiamo a essere un po' troppo euforici, cioè a Roma fa un tiro e mezzo in porta a partita. Ieri, insomma, al di là del risultato, eccetera, gli equilibri, chiamiamoli come vogliamo, la Roma ha fatto due tiri in porta e questo negli ultimi tempi si verifica spesso. Quindi, se si vuole lottare per qualcosa, il gioco bisogna trovarlo, perché sennò rimaniamo al palo. Siamo... Spero che gli scontri diretti abbiano persi tutti. Questo è verissimo. Sugli scontri diretti ne abbiamo parlato. Sul resto rimane la solita discussione tra estetica, guarda, e pratica. La Roma è una squadra meno bella e che ha una produzione offensiva inferiore rispetto all'anno scorso. Però molto equilibrio. Secondo me la partita di ieri è una buona partita, anche se in telecronaca abbiamo sottolineato le difficoltà che c'erano. Oltretutto il Karabag, anche dopo l'1-0, è rimasto dietro la linea del pallone, quindi sono stati 90 minuti contro una squadra che giocava tutta in difesa. E secondo me la partita di ieri, con una condizione atletica che non è esaltante, questo se volete è un tema, però è stata una buona partita, nel senso che comunque la Roma ha concesso pochissimo, è stato un errore difensivo di Fazio che poteva costare molto, ma per il resto non ha rischiato nulla, dai. C'è stata grande concentrazione, è stata una partita di test secondo me sulla concentrazione. Poi sono d'accordo con l'ascoltatore sul fatto che i picchi estetici siano altri, e sicuramente la Roma di Spalletti aveva una produzione offensiva migliore, però questa è molto equilibrata e se vuoi è anche un ulteriore è un valore aggiunto, secondo me, dello stereotipo che faceva di Francesco uno demaniano. Esatto, infatti secondo me questo è un valore aggiunto, non è una sottrazione. Se poi non ti ruba gli occhi come l'anno scorso, poi intendiamoci su rubare gli occhi, a me come sai ruba gli occhi anche una squadra che si muove come un'orchestra, e la Roma in molti casi sia offensivamente che difensivamente lo fa. Borsa, torniamo. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca a 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Quante cose avete da fare in tutto il giorno, quante corse, quante cose a cui pensare, poi arrivate a fine giornata e vi accorgete che siete rimasti fuori dal mondo. Nessun problema. Alle 21 in punto, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, accendete su Radio 24, rilassatevi e lì arrivo io, Roberta Giordano, che con il mio effetto notte vi racconto con tanti ospiti, approfondimenti, le notizie più importanti del giorno dall'Italia e dall'estero, in modo che un giorno non potrete dire «io questa non la sapevo». Ti piacerebbe entrare nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspetta domenica 17 dicembre al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Gianluca Nicoletti dalla stazione di Radio 24. Comunicazione di servizio. Il mio viaggio in treno continua. Chi volesse saperne di più, mi ascolti ogni sabato alle 15. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Io per dare ragione a quelli di Anno non cambio mai giocherei in 10 domani. Lei mister, cosa sarebbe disposto a fare nel caso avvenga quello che tutti desiderano? Io nella vita ho già dato. Probabilmente se passano un'altra volta il group stage a quel punto sanno di essere fra le squadre più forti d'Europa. E la prossima la faremo, come si dice a Firenze, a brutto muso. partita, loro erano al ristorante con le compagne e con le mogli, io ero a casa a bestemmiare in otto lingue perché non sono riuscito a dormire neanche la donna la notte dopo, e quindi quello forse ne uscivo peggio sono io. Una cosa mi darebbe gusto, siccome i miei ragazzi sono il gruppo che ha fatto più punti in campionato nella storia del Napoli e al secondo posto ci sono i miei ragazzi, un pizzico di culo, domani sera potremmo essere anche l'unico gruppo del Napoli nella storia del Napoli che fa per due volte gli ottavi di finale di Champions. Allora, io ringrazio e faccio i complimenti a Giorgio Luca, il nostro autore, e soprattutto Gianmarco Ferronato, il nostro regista, per le scelte musicali che ci porteranno diritto al licenziamento, sia questa che quella dopo che vi faccio sentire. Ma comunque, questa è un'altra storia. Perché? Perché è tornato il sarrismo. Abbiamo sentito marxismo e sarrismo, l'hanno inviati l'altro giorno a Gazzetta dello Sport in prima pagina. A proposito, ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ciao. Marxismo, ne abbiamo parlato prima, Max Allegri. Il sarrismo è tornato, poi arriverà anche il ciolismo, ma dopo. Pierluigi, finalmente ha ripreso colore il ragazzo, non Ricci, ma Sarri. Si è presentato anche sbarbato, fresco, insomma, ha smaltito, ha smadonnato per due notti e poi gli è passata la partita con la Juve. Beh, sicuramente non passa il risultato, però la vita va avanti e stasera a Napoli si gioca tantissimo. Insomma, io credo che oggi sia uno di quei passaggi, poi non dipende tutto dal Napoli. È quello. Per il Napoli abbiamo avuto mille parole di miele durante l'anno, strameritate. Però, insomma, sarebbe anche giusto e doveroso dire che se non succederà quello che tutti speriamo, insomma, questo sarebbe stato un fallimento. Bisogna dire le cose perché bisogna essere intellettualmente onesti. Poi un fallimento dovuto a una partita sbagliata, quella di Donetsk, o meglio quella in Ucraina del primo match, e al fatto di aver beccato il Manchester City, che forse è la squadra più in forma d'Europa, col Paris Saint Germain. Però aspettiamo, dai, io ho detto, ho iniziato la puntata dicendo che ci credo, perché penso che comunque il City, anche con riserve, forse soprattutto con riserve in un momento come questo, può fare risultati. Ma guarda, io Napoli apposta deve pensare a se stesso, quindi certo. Per la prima volta dopo 60, avete sentito bene, 6-0, 60 partite consecutive con Insigne, compresa Coppa Italia, compresa tutte quelle che volete, 60 da titolare per Lorenzino Insigne, che gioca ininterrottamente dal 23 ottobre 2016, questa sera per la prima volta si ferma, quindi questa è un'altra prova importante. Però Filippo, io, visto che lo conosci molto bene Guardiola, come affronta lui storicamente queste partite? No, in maniera seria, perché era successo lo stesso quando era al Barça, e qua capitava che si classificassero dopo quattro partite, per cui ne aveva magari due da fare. Io mi ricordo anche le prime polemiche che io ricordo su questo turnover, diciamo, da qualificate, erano con lo United, con Ferguson, erano ancora in Inghilterra. Cioè, questa è una cosa che va indietro negli anni. Lui l'affronta bene, voglio dire, comunque è uno che in generale giochi contro chi giochi, le affronta sempre in maniera molto seria, per cui io lì, poi dipende dai protagonisti, cioè lui non è che gli dice no vabbè ragazzi stasera andiamo a, diciamo, col piede alzato sull'acceleratore e non schiacciato, questo non lo dice, i giocatori dipende da quanta voglia hanno. Dovreste andare a vincere innanzitutto su quel campo lì, farà freddo. Non è facile, hai una squadra contro che fiuta il risultato storico. Insomma, bisogna anche darci dentro. Se lo sono guadagnato un po' il relax, no? Se lo sono guadagnato. No, ma appunto, infatti, ma giustissimo. Poi hai il derby di Manchester dietro la prossima curva. Io non riesco a essere fiducioso come Pierluigi, però spero di sbagliare. No, insomma, loro ci proveranno, però è chiaro, insomma, la situazione è quella che è un peccato. Io dico una cosa, prima stavi parlando, ho interrotto un attimo per Luigi, ma mi è venuto in mente la situazione di ieri sera dell'Atletico, no? Anche l'Atletico ieri doveva vincere a Stamford Bridge e sperare nel miracolo del Karabag, no? Quindi assai complicate entrambe le cose. Per il Napoli il compito è un pochino più facile, diciamo, col Feyenoord, però poi dipende da qualcun altro. E poi soprattutto pensavo un eventuale diciamo scalata in Europa League, sì, comunque sarebbe un brutto colpo, come lo è stato per l'Atletico. Poi magari ci arriviamo dopo, però le due situazioni per me hanno un buon, parallelismo. Sì, sì, è vero. Dicevi, Pier? Mm. No, secondo me c'è anche una cosa un po' diversa, che per il Napoli c'è comunque una corsa a scudetto che per l'Atletico è un po' più complicata, quindi l'Europa League, lo sappiamo, è una competizione nobilissima che merita grande rispetto, ma che certamente dal punto di vista degli orari, della logistica, non è proprio ideale, secondo me, e soprattutto del febbraio che propone. No, io credo che il Manchester City, cioè, siccome siamo in Italia, quindi siamo nel paese di Machiavelli, e siamo abituati a pensare male, ecco, io non penso male, perché la storia della Champions, al di là di una partita del Lione di qualche anno fa da ufficio inchieste, ma poi per il resto la storia della Champions è una storia molto limpida, molto pulita da questo punto di vista. No, guarda, non ti dico che vanno lì a perdere apposta, Piero. Arrivo a dirti che, appunto, che in una squadra che ha una rosa così profonda come il Manchester City, la differenza tra titolari e riserve è molto relativa. Voglia di chi gioca un po' meno di mettersi in evidenza è tale che forse è meglio se c'è un po' di turnover. Questo sì. Perché probabilmente hanno più voglia di quelli che hanno il posto assicurato, tanto per capire. Detto questo, io non ti sto dicendo che il Napoli al 90, che al 100% passerà il turno. Penso che il Napoli debba andare in campo, fare la sua partita. Anche il Napoli ha una partita contro un avversario che non ha nulla da chiedere, quindi ha un piccolo vantaggio da questo punto di vista. È chiaro che speriamo bene, perché insomma, così come quella della Roma è stata un'impresa storica, e va detto, per come era il girone, io all'inizio, dopo il sorteggio, pensavo che passassero Juve e Napoli. Sì. Quindi se il Napoli guardi la conformazione dei gironi è la cosa più naturale che pensi. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi torniamo, state con noi, perché poi vi mettiamo un'altra base che vi piacerà. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. A chi se queda la clara, la intrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Orgulloso de los chicos, están bien, y vamos para adelante con las tres competiciones que tenemos por delante. Así que el chip, cambiamos el chip, entramos en Europa League, Copa del Rey. Y liga, ningún problema. Vamos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puse un cerco alla muerte. Alzi la mano chi non se l'aspettava. De tu querida presencia, ningún problema. Carlo Genta, proprio ningún problema, no? Carisma del Ciolo è tanto, però. Ningún problema, mi sembra tanta roba. Abbiamo la Coppa di Spagna, Coppa del Re, per carità. Non è che se devi uscire con Claudia Schiffer e poi lei all'ultimo momento di Dabuca dice: vabbè, passo a casa, mi faccio un tonno e fagioli, ma nessun problema. Non è la stessa cosa. È un grande, guarda che io l'ho sentito dopo il derby, che gli dice: dai, erano a 10 punti dal Barça, dice: come la situazione in Liga? Perfetta. Ieri è uscito dalle, cioè, voglio dire, perché attenzione, adesso mi sa che sono arrivati a due finali negli ultimi 4 anni. Allora, finale, quarto di finale, finale, semifinale, questi gli ultimi 4 anni dell'Atletico Madrid. Adesso c'è l'Europa League. Nessun problema. Ma direi che l'emblema dobbiamo fare di questo positivismo il nostro manifesto. Ma è chiaro, specialmente quando dopo queste meravigliose basi musicali ci metteranno all'uscio. A me, anche a Pardo, mica solo a me. Anche per voi, musicalmente, nessun problema, dai. Nessun problema. No, ma la cosa più bella, non so, ufficio facce, non so se Pardo condivide, o tu Filippo, che lo vedi molto più spesso. La cosa bella, per radio non si vede la faccia, possiamo metterla su Twitter, sui nostri social, su Facebook, o che ne so, tanto De Luca è un esperto. È la faccia con cui dice queste cose. Sì. Perché cioè, è convinto, eh? Una sfinge, posso dire una cosa. C'è un elemento a discolpa, che secondo me la metabolizzazione dell'eliminazione era già stata fatta, nel senso che l'Atletico Madrid si è aveva già lavorato il lutto, sì. Beh, voglio dire, la partita contro la Roma, l'Atletico Madrid era praticamente già fuori, serviva un miracolo. e la vittoria sì probabilmente aveva creato qualche speranza, però insomma voglio dire non è che ieri sia successa una sorpresa, e quindi insomma, ci sta che lui dica queste cose. Poi che per un club con la storia come l'Atletico Madrid la retrocessione in Europa League sia comunque una piccola grande disfatta, questo è indiscutibile, ma penso che lo sappia anche lui, non è esattamente sì, nessun però c'è problema. Anche da dire un'altra, due cose aggiungo. Uno, che per come sono fatti loro, qua anche i tifosi e tutto quanto, vincere l'Europa League loro sono contenti lo stesso, perché comunque è un trofeo, e questo è una cosa che dobbiamo anche magari imparare noi in Italia, no? Non abbiamo mai dato troppo peso, e invece qua l'Europa League ci tengono, e l'Europa, se arriviamo a maggio e l'Atletico ha vinto la sua Europa League, comunque loro sono abbastanza contenti lo stesso, quindi questo mi sembra. E l'altra cosa è chiaro che voglio dire, nel momento in cui non vinci col Karabakh, diciamo hai metabolizzato che, sì, che devi fare, non è che, cioè, te lo meriti, non è che non loro, il grande rammarico che hanno è quello con la partita con la Roma, che l'andata, perché l'andata effettivamente forse è stata la miglior partita dell'Atletico in tutta la stagione, e niente, poi hanno sbagliato i gol, loro hanno pareggiato il girone Roma Chelsea Atletico Madrid, forse c'era un triangolare, sarebbe finito alla pari. Esatto. Cioè che loro hanno, perché hanno fatto due pareggi col Karabakh, infatti ha detto ieri, cosa ha detto, dice abbiamo fatto più punti col Chelsea, cosa ha detto, o con la Roma, dice no, con chi ha vinto il girone, quindi con la Roma, rispetto a quanti punti abbiamo fatto col Karabakh, che è così. Sì, è così, 4 punti contro 2, la matematica, se la matematica non è un'opinione, è proprio così. Però dico, ragazzi, fatti una domanda e datti una risposta, nessun problema. Nessun problema, è tanta roba, soprattutto con quella faccia di ripeto, bellissima. Nessun problema. Allora, ho meno di 2 minuti, però il mistero buffo torna al Real Madrid e non si capisce molto bene. Real Madrid è il mistero buffo di Benzema e Cristiano Ronaldo, che hanno 2 gol nella Liga. Io l'ho già risolto, Ronaldo non ne frega niente, va a fare la comparsa nella Liga, si allena per quelle che contano. Sì, può essere così, perché adesso stasera può fare un altro record, secondo me ci tiene un sacco, cioè segnare in tutte le partite del girone, non l'ha mai fatto nessuno, stasera partita che non ha niente da dire, almeno per loro, per il Borussia Dortmund qualcosa in più, e domani gli danno il pallone d'oro, lui è contento così sicuramente, però c'è da dire una cosa, non possono andare avanti così, la frase migliore è quella di Zidane ieri, ha detto, dice, la stagione è ancora molto lunga, occhio con Ronaldo, perché lo sa anche lui che non può continuare a non segnare in Liga, perché poi sennò il mormorio aumenta, non si può, quindi qualcosa sì, succederà. Mormorio per uno che alza il pallone d'oro domani, vedi, e non è neanche il primo, il quinto, vedi un po' tu che la gente mormori pure. Grazie Phil, lo so. Grazie Filippo, ciao Pier, ciao. Che la gente mormori, no? Ragazzi, vado, corro verso il treno. Vai, corri! Urgenti? Copri. No, finito qui. Tanto dobbiamo pagare il taxi con l'app. Mi raccomando la sciarpa. Ciao Pierluigi, a domani. Ciao. Allora, chiudiamo qui, aggiorniamo la seduta. A domani, quando avremo il tabellone completo delle qualificate alla seconda fase di Champions League, basta. Non voglio aggiungere altro. Sentiamo domani. Giorgio Druga, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!